Dite quello che volete, è stupendo. Ha classe, ha carattere, è intelligente. Nessuno ha mai detto i versi in questo modo, proclamò la duchessa, temendo che Gilbert dicesse qualche cattiveria. Gilbert si diresse verso un altro gruppo per evitare un conflitto con la zia, la quale, d'altronde, non mi disse di Rachel altro che banalità. Al declino della vita, Madame de Germain aveva sentito risvegliarsi in lei nuove curiosità. Il gran mondo non aveva più niente da rivelarle. L'idea di occuparvi il primo posto era per lei non meno evidente dell'altezza del cielo azzurro sopra la terra. Non riteneva di dover affermare la propria posizione, che giudicava incrollabile. In compenso, leggendo, andando a teatro, avrebbe voluto godere di un prolungamento di quelle letture, di quegli spettacoli. Come un tempo, nel piccolo, stretto giardino dove si beveva l'aranciata, tutto quanto c'era di più squisito nel gran mondo veniva familiarmente, fra le brezze profumate della sera e le nubi di polline, a coltivare in lei il gusto del gran mondo. Così un diverso appetito le faceva adesso desiderare di sapere le ragioni di questa o quella polemica letteraria, di conoscere gli autori, di frequentare le attrici. Il suo spirito affaticato reclamava una nuova alimentazione. Si avvicinò, per conoscere gli uni e le altre, a donne con cui un tempo non avrebbe mai accettato di scambiarsi biglietti da visita e che facevano valere la propria intimità con questo o quel direttore di rivista per accaparrarsi la duchessa. La prima attrice invitata credette d'essere la sola in un ambiente straordinario, che parve più mediocre alla seconda, quando vide chi l'aveva preceduta. La duchessa, poiché certe sere riceveva dei sovrani, credeva che niente nella sua posizione fosse cambiato. In realtà, lei, la sola d'un sangue davvero senza mescolanze, lei, che nata Germain, poteva firmarsi Germain Germain, quando non si firmava la duchessa di Germain, lei, che persino alle sue cognate appariva come qualcosa di più prezioso, una sorta di Mosè salvato dalle acque, di Cristo fuggito in Egitto, di Luigi XVII scampato al Temple, la purezza della purezza? Adesso, obbedendo indubbiamente a quel bisogno ereditario di nutrimento spirituale che aveva provocato la decadenza sociale di Madame de Villeparisis, era diventata anche lei una Madame de Villeparisis, nel cui salotto le donne snob temevano di incontrare la tale o il tal altro e di cui i giovani, constatando il fatto compiuto senza conoscere i precedenti, pensavano che fosse una Germain di qualità meno pregiata, di un'annata inferiore, una Germain declassata. Ma dal momento che anche i migliori scrittori smettono spesso, all'avvicinarsi della vecchiaia o dopo un eccesso di produzione, d'avere talento, si può ben scusare che una donna di mondo perda, a partire da un certo momento, il proprio spirito. Swann non ritrovava più nello spirito duro della duchessa di Germain lo sfumato della giovane principessa dell'Homme. Verso il tardi, prostrata dal minimo sforzo, Madame de Germain diceva una gran quantità di sciocchezze. Molto spesso, certo, e parecchie volte anche nel corso di quel ricevimento, ridiventava la donna che avevo conosciuta e parlava con spirito delle cose mondane. Ma accanto a ciò succedeva assai di frequente che quel suo eloquio brillante sotto uno sguardo incantevole, che per tanti anni aveva tenuto sotto il suo scettro spirituale gli uomini più eminenti di Parigi, scintillasse ancora, ma per così dire a vuoto. Quando veniva il momento di lanciare una battuta, si interrompeva per lo stesso numero di secondi d'una volta, dava l'impressione di esitare, di costruire, ma la battuta che lanciava non valeva nulla. Quante poche erano, d'altronde, le persone che se ne accorgevano. La continuità del procedimento li persuadeva della sopravvivenza dello spirito, come succede a chi, superstiziosamente affezionato a una certa pasticceria, continua a ordinare i dolci alla stessa ditta senza accorgersi che sono diventati pessimi. Già durante la guerra la duchessa aveva dato segnali di questo indebolimento. se qualcuno pronunciava la parola cultura. Lei lo interrompeva, sorrideva, accendeva il suo incantevole sguardo e lanciava la cultura, il che faceva ridere gli amici, cui sembrava di riconoscervi lo spirito German. E certo era lo stesso modulo, la stessa intonazione, lo stesso sorriso che avevano affascinato Bergotte, il quale del resto aveva conservato anche lui i suoi giri di frase, le sue interiezioni, i suoi puntini di sospensione, i suoi epiteti di prima, ma per non dire più nulla. Ma i nuovi arrivati si stupivano e a volte, se non erano capitati in un giorno in cui era divertente e nel pieno possesso dei suoi mezzi, dicevano: «Quanto è stupida!» La duchessa, d'altronde, si ingegnava di canalizzare il suo incanaglimento e non lasciare che si estendesse a quelle persone della sua famiglia da cui traeva una gloria aristocratica. Se a teatro, per adempiere al suo ruolo di protettrice delle arti, aveva invitato un ministro o un pittore e questi le chiedeva ingenuamente se sua cognata o suo marito non fossero presenti in sala, la duchessa, timorata sotto le superbe apparenze dell'audacia, rispondeva insolentemente: «Non ne ho la minima idea. Una volta uscita di casa ignoro che cosa faccia la mia famiglia. Per tutti gli uomini politici, per tutti gli artisti, io sono vedova». In tal modo evitava che il parvenu troppo sollecito s'attirasse qualche sgarbo e attirasse a lei stessa qualche reprimenda di Madame de Marsan e di Bazin. «Non vi so dire quanto piacere mi abbia fatto rivedervi. Dio mio, quando è stata l'ultima volta che vi ho visto? In visita dalla principessa di Agrigento, dove vi incontravo spesso. Naturale che ci andavo spesso, ragazzo mio, visto che Bazin a quel tempo era innamorato di lei. Era sempre dalla sua amica del momento che mi si incontrava di più, perché lui mi diceva: non dimenticate di andare a farle visita. In fondo mi sembrava un po' sconveniente quella specie di visita digestiva che mi faceva fare dopo che lui aveva consumato. Avevo finito con l'abituarmici e abbastanza in fretta, ma la cosa più noiosa è che ero costretta a mantenere dei rapporti dopo che lui aveva interrotto i suoi. Mi veniva sempre in mente il verso di Victor Hugo: un peu la bonheur et laissez-moi les nuits. Come nella poesia in questione. Arrivavo comunque col sorriso sulle labbra, ma davvero non era giusto, avrebbe dovuto lasciarmi, riguardo alle sue amanti, il diritto d'essere incostante, perché accumulando tutti i suoi scarti, avevo finito col non avere più un pomeriggio per me. D'altronde, quel periodo mi sembra dolce in confronto al presente. Mio Dio, che si sia rimesso a tradirmi potrebbe solo lusingarmi, dato che mi ringiovanisce. Ma preferivo la vecchia maniera. Diamine, era troppo tempo che non mi tradiva, si era dimenticato come comportarsi. Ma con tutto questo non stiamo male insieme, ci parliamo, ci vogliamo anche abbastanza bene, concluse la duchessa, temendo che avessi capito che erano del tutto separati. E come si dice di un malato grave, ma parla ancora benissimo, stamattina gli ho fatto lettura per un'ora. E continuò: gli dirò che siete qui, vorrà vedervi. E raggiunse il duca che, seduto su un canapè accanto a una signora, stava parlando con lei. Notavo con ammirazione che era quasi lo stesso, solo più bianco, sempre altrettanto maestoso e altrettanto bello. Ma quando vide che sua moglie andava a parlargli, assunse un'espressione talmente furiosa che lei fu costretta a battere in ritirata. «È occupato, non so cosa stia facendo, lo vedrete fra poco», mi disse Madame de Guermont, preferendo che me la sbrogliassi da solo. Poiché Bloch, avvicinatosi a noi, aveva chiesto a nome della sua americana chi fosse una giovane duchessa presente alla festa, gli risposi che era la nipote del signor di Beauté, nome sul quale Bloch, cui esso non diceva niente, mi chiese spiegazioni. «Ah, Beauté!» esclamò rivolgendosi a me Madame de Guermont. «Vi ricordate? Che cose vecchie, che cose lontane!» Ebbene, era uno snob. Era gente che abitava vicino alla casa di mia suocera, roba che non vi interesserebbe, signor Bloch. È divertente per questo ragazzo che ha conosciuto tutto questo una volta assieme a me, aggiunse Madame de Germont indicandomi, e mostrandomi così, in più d'un senso, quanto tempo fosse trascorso. Le amicizie, le opinioni di Madame de Germont si erano da allora talmente rinnovate che considerava retrospettivamente uno snob il suo affascinante babal. Questi, d'altronde, non soltanto era remoto nel tempo, ma, cosa di cui non m'ero reso conto ai miei primi passi nel gran mondo, quando l'avevo creduto una delle personalità essenziali di Parigi, destinata a restare per sempre associata alla sua storia mondana, come Colbert a quella del regno di Luigi XIV. Aveva anche lui il suo marchio provinciale. Era un vicino di campagna della vecchia duchessa e come tale era diventato amico della principessa dell'Homme. Ciò non toglie che quel Broté, spogliato del suo spirito, relegato in anni così lontani che egli stesso datava, il che provava che la duchessa poi lo aveva completamente dimenticato, e nelle vicinanze di Germain costituiva, come non avrei mai supposto quella prima sera all'Opéra Comique, quando mi era parso un dio nautico, abitatore del suo antro marino. Un legame fra la duchessa e me, perché lei ricordava che l'avevo conosciuto, ed ero dunque per lei un amico, se non uscito dal suo stesso ambiente, perlomeno vissuto nel suo stesso ambiente da molto più tempo rispetto a molti dei presenti. E lei se ne ricordava, sebbene abbastanza imperfettamente da aver dimenticato certi particolari che a me, allora, erano sembrati essenziali, per esempio che non frequentavo Germont e non ero che un piccolo borghese di Combré ai tempi in cui lei veniva alla messa di matrimonio di Mademoiselle Percepied e che non mi aveva mai invitato, malgrado tutte le preghiere di Saint-Lû, nell'anno che seguì la sua apparizione all'Opéra Comique. A me questo sembrava capitale, perché era proprio in quel momento che la vita della duchessa di Germont mi appariva come un paradiso nel quale non sarei mai entrato. Ma a lei essa appariva invece come la sua solita mediocre vita di sempre. E poiché, da un certo momento in poi, io avevo pranzato spesso a casa sua e prima ancora ero stato d'altronde amico di sua zia e di suo nipote, non sapeva più esattamente in quale periodo fosse cominciata la nostra intimità e non si rendeva conto del terribile anacronismo in cui incorreva, facendo cominciare questa amicizia con alcuni anni d'anticipo. Infatti questo comportava che io avessi conosciuto la Madame de Germont del nome Germont, impossibile da conoscere, che fosse stato ricevuto nel nome dalle sillabe dorate, nel Faubourg Saint-Germain, mentre ero andato semplicemente a pranzo da una signora che era già per me una signora come un'altra, una signora che mi aveva invitato non già a scendere nel mondo sottomarino delle Nereidi, ma a passare la serata nella barcaccia di sua cugina. «Se volete qualche particolare su Brottier, che ne valeva assai poco la pena», aggiunse la duchessa rivolgendosi a Bloch, «chiedetelo a questo ragazzo, che vale 100 volte di più». Ha pranzato 50 volte con lui a casa mia. Non è vero che l'avete conosciuto a casa mia? In ogni caso, è stato a casa mia che avete conosciuto Swann. E io ero tanto stupito di vederla credere che avessi conosciuto il signor di Beauté altrove, forse che a casa sua, e dunque che frequentassi quella società prima di conoscerla, quanto di vederla credere che avessi conosciuto Swann a casa sua. In modo meno mendace di Gilbert, quando diceva di Broté, è un vecchio vicino di campagna. Mi piace parlare con lui di Tansonville, mentre allora, a Tansonville, lui non li frequentava affatto. Avrei potuto dire, era un vicino di campagna che veniva spesso a trovarci di sera. A proposito di Swann, che in effetti mi ricordava tutt'altro che i Germont.